Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Nigel naturalmente si nasconde. Esce la notte mentre io dormo, mangia, fa quello che deve fare e poi si nasconde di nuovo. Questo per alcuni giorni. Gli amici mi tranquillizzano, mi dicono che ci vorrà tempo perché un gatto si senta a proprio agio a casa propria. Qualche giorno dopo vado a dormire stanca, stremata da una giornata gelida e da un bicchiere di vino di troppo. Dormo sodo e forse russo. Anzi, russo talmente forte da svegliarmi e accorgermi che il suono che sentivo non era il mio. Erano le fusa di Nigel, che ha deciso che ho passato l'esame e che si fida. Ciao, mi chiamo Luisa Buoni, ho 49 anni e vivo in uno dei tanti paesini dormitorio in provincia di Roma. Oggi ho un marito, un cane, 11 gatti. Ecco, basta sentire la presentazione di Luisa per capire di cosa si parla oggi, visto che lei, presentandosi, sostiene che vive fuori Roma, ha un marito, ma soprattutto un cane e 11 gatti. Capirete che oggi si parla non solo di gatti, si parla di animali. E in qualche modo il suo animale, che era un gatto che si chiamava Nigel, il primo gatto che lei ha avuto nella sua vita, mi pare di capire, a parte vabbè quando era giovane, insomma, che ha deciso di prendersi quando aveva 35 anni, l'ha chiamato Nigel. Tra l'altro l'ha chiamato Nigel per un motivo, poi lo dice meglio nel racconto, perché c'è un brano, una canzone che si chiama Making Plans for Nigel. We're only making plans for Nigel. Che è una canzone inglese degli anni 80, ma non mi ricordo di chi, però XTC, giusto? Ecco, Nigel fa parte di quella categoria di persone o animali che sono stati chiamati, il cui nome deriva da una canzone o da un gruppo. Io mi ricordo quando ero piccino avevo una fidanzatina che si chiamava una fidanzatina è orribile, è una fidanzata, cioè, avevo 16 anni ma era una fidanzata perché non era mignon, che si chiamava Ketty. Perché i suoi genitori ascoltavano sempre Piccola Katie, qua però fa male questa, è un po' sì, perché ascoltavano sempre Piccola Katie dei Pooh, solo che era Piccola Katie, scritto C-A-T-Y credo, e lei invece si chiama proprio Katie, con la K-T-T-Y. 349-238-6666, se in qualche modo un animale vi ha salvato la vita, oggi è la puntata per raccontarlo. Vi faccio un esempio, Elisa avrà avuto 10 anni o giù di lì, e mi ero beccata al morbillo più disastroso che potete immaginare. Stavo rintanata sotto le coperte al buio nella mia cameretta, e sulla pancia mi ha vegliato per 2 giorni interi la mia gatta Baffina. Qui bisogna aprire un capitolo sui nomi degli animali, anche questo fa un po' male. Ricordo un caldo delizioso e la netta sensazione di non essere sola. 349-238-6666. Io sono sicuro che oggi riusciamo a fare una puntata in cui si parla di animali che vi hanno salvato la vita in maniera figurata, ovviamente, e non invece se è il caso, senza diventare melensi e sdolcinati. Facciamo questa scommessa? Secondo me ce la facciamo. 349-238-6666. C'è però una piccola comunicazione che io devo fare, che c'entra poco con gli animali, ma c'entra molto con l'uso dei social network. Tiziano so che ci tiene particolarmente. È successa una cosa veramente stupida e banale. Ieri sono alla Fnac. La Fnac è quei posti dove vendono dischi, DVD, musica, libri e anche un po' di tecnologia. E hanno anche un bar. Ho fatto un aperitivo, anche se sono astemio, e ho preso uno spritz e la persona che era con me ha preso un prosecco. Solo che essendo astemio, non avendo mangiato, avendo bevuto uno spritz, ero praticamente ubriaco dopo. E sono andato via senza pagarlo, questo spritz. Mi sono accorto molto dopo, quando ormai la Fnac era chiusa, e mi sono ripromesso di andare chiaramente stasera a ripagare. L'ho scritto su Twitter, perché ho scoperto, Tiziano, magari ti serve per le tue ricerche, che Twitter è una sorta di confessore laico, cioè quando devi liberarti di un peso usi Twitter, oppure quando hai del tempo da perdere e non sai cosa fare. L'ho scritto su Twitter e la gente ha cominciato a scrivermi, no, torna a pagarlo, no, lascia stare, chi se ne frega, la Fnac, eccetera, eccetera. Da stamattina, alle 11:30, con precisione, mi arriva una mail, che è la mail che ti avvisa, Twitter ti avvisa che la Fnac ti sta seguendo su Twitter. Questa cosa è un po' inquietante e un po' no, in realtà, perché, come mi diceva prima Tiziano, ricordami il nome del ricercatore, ti prego, che Morozov. Ma cos'è? Morozov sembra il nome di una bomba nella rete. Insegna ad Harvard, mi dice Morozov, e sostiene che le tre motivazioni per cui si usa la rete, no, giusto? I tre... Ah, ok, la rete è soprattutto censura, propaganda e sorveglianza. Io quantomeno nella terza ci sono dentro pienamente. Comunque appena finisce, giuro, appena finisce il programma vado a pagare queste due cose e la Fnac smetterà di seguirmi su Twitter. 349-238-6666. Fate molto attenzione alle, alle tracce che lasciate nella rete. Molto, perché nulla si cancella, giusto? Non so, io chiedo a Tiziano Bonini, che è il mio referente. Lui mi dice di sì, non mi sembra molto convinto. Un altro esempio invece, non di persone che sono rimaste inguaiate nella rete, ma di persone salvate dal proprio animale. Valentina. Allora, non ce la posso fare. Nevina, una piccola bichon frise. Cosa vuol dire? Cos'è? Bichon frise, frisé, bichon frisé. Che cos'è? Un sarà tipo un... un barboncino, un barboncino. Una vita difficile salvata. Andiamo avanti. Laura, birillo. Birillo è più regolare. Un bastardino neanche troppo bello, che è una caratteristica propria dei bastardini. A 11 anni, di tardo pomeriggio, rientravamo da una passeggiata. Casa vuota. Mentre io aprivo la porta, un aspirante ladro rompeva il vetro di una porta finestra. Birillo è entrato in casa abbaiando furiosamente con il suo vocione e l'ha fatto fuggire. Viva Birillo, sei ancora tra noi. Forza. Tra l'altro, Laura che scrive è la stessa Laura di ieri. Vi ricordate che aveva fatto un colloquio, lo doveva fare stamattina alle 9, ci ha scritto sul profilo Facebook Matteo Caccia, io sono qui, che è andato abbastanza bene, però le faremo sapere. Francesca invece, mi salvano la vita i merli che in primavera cinguettano sui fili della luce in centro di Milano. 349-238-6666, l'animale che in qualche modo vi ha salvato la vita, che fosse un cinguettio oppure no, questa invece è la storia di Luisa. È il 1997, è un gennaio freddissimo e io sono a Milwaukee, Wisconsin. Sono qui già da 8 anni, grazie a un matrimonio ormai fallito. All'epoca era il 1989, trasferirsi, lasciare tutto per amore sembrò una buona idea. 6 anni più tardi divorziavo e proprio col divorzio è cominciata la mia nuova vita. Era il 1997, dicevo. Per lavoro faccio siti web, ma poi suono in una band. Vivo da sola e sono contenta. Ho 35 anni, sono bella, single e sono piena di vita. Però ogni tanto mi sento un po' sola. Divertirsi non è tutto. E ci sono sere in cui vorrei amare e sentirmi riamata. Avere a che fare con qualcuno che non sia un divano o una TV. E allora decido. Voglio un gatto. Un po' perché è stato un gatto a colorarmi l'adolescenza e un po' perché so che mi farebbe ritrovare un nuovo calore, una nuova forma di coraggio. Voglio un gatto e lo voglio giallo. Vado al rifugio ufficiale di Milwaukee, la sede della Human Society, e comincio a cercare. Sono tanti e sono tutti meravigliosi, ma il mio gatto giallo si fa trovare rapidamente, in una gabbietta un po' defilata. E io avverto la volontaria, ho scelto. Lei me lo sconsiglia, dice che è un esemplare timido, è spaventato e 2 adozioni precedenti sono fallite, perché il gatto non è uno di quelli che fa le fusa, è uno di quelli che si nasconde. In realtà avevo questo ricordo di una giornata molto difficile di quando ero proprio adolescente e di un gatto a casa di un mio amico che mi si era posato in grembo e mi aveva fatto stare meglio, ed era un gatto di color giallo, quindi sono andata lì dicendo: io voglio riempire un po' la mia vita, voglio un gatto giallo. Certo, non sembra questo il gatto che dovrebbe accogliermi amorevolmente ogni volta che torno a casa, ma io seguo l'istinto e lo prendo comunque. Lo chiamo Nigel, da una canzone inglese degli anni 80, Making Plans for Nigel. Lo porto a casa dove lo aspettano 4 tipi di cibo, una cassetta nuova di zecca con profumatissima lettiera, ciotole rosse e verdi colme di acqua e croccantini, palline di gomma per giocare e molto altro. E Nigel, naturalmente, si nasconde. Esce la notte mentre io dormo, mangia, fa quello che deve fare e poi si nasconde di nuovo. Questo per alcuni giorni. Gli amici mi tranquillizzano, mi dicono che ci vorrà tempo, perché un gatto si sente proprio agio. Non ho fretta, però è strano non poterlo neanche vedere. Tra l'altro, nelle 2 stanze della casa è anche difficile capire dove si possa nascondere. Qualche giorno dopo vado a dormire stanca, stremata da una giornata gelida e da un bicchiere di vino di troppo. Dormo sodo e forse russo, anzi russo talmente forte da svegliarmi e accorgermi che il suono che sentivo non era il mio, erano le fusa di Nigel, che pare abbia deciso. Ho passato l'esame e lui si fida. La vita nuova, quella che volevo, è ufficialmente cominciata. Come ringraziamento comincio a fare volontariato alla Human Society, mentre Nigel diventa il figlio che non ho, il punto di riferimento negli anni che seguiranno e che saranno sempre più complicati. Mamma che non sta bene, il mio rientro in Italia, la casa da comprare e una vita da ricostruire. Nigel, col suo folto pelo giallo e una macchia nera sul naso, vola in braccio a me per 10 ore da Chicago a Roma e prende possesso della nuova casa al Pigneto. Incontra la sua prima sorellina, adottiva ovviamente, la minuscola Lily, che adotterò nel 2000 dall'oasi di Torre Argentina. Nigel diventa il primo di una lunga serie di gatti, tutti trovati o presi dai rifugi, tutti ammaccati, malati, rifiutati, proprio come era lui nel 1997 nel Wisconsin. È chiaro che ti devi alzare, che ne so, 3/4 d'ora prima per dare da mangiare, per somministrare le medicine a chi ne ha bisogno, per portare fuori il cane. Torni a casa la sera e la prima cosa che fai è controlli come stanno gli animali, non parti, non vai in vacanza. Chiaramente devi comprarti molte sedie, perché a casa nostra non c'è più una sedia libera, però secondo me ne vale la pena. Mi aiuterà a selezionare amici e fidanzati. Quando arriva un estraneo scappa, ma se poi dopo qualche giorno Nigel lo attacca, lo accetta, beh, allora quella persona è a posto. Con Adriano è un po' più complicato, perché Nigel è geloso. Non a caso, Adriano ed io ci sposiamo proprio nel 2005, anno in cui Nigel se ne va. Perché i gatti, anche quelli che invecchiano bene, vivono sempre meno di noi. Oggi io e Adriano abbiamo 10 gatti e un cane. Io continuo a fare volontariato nei rifugi e quando torno a casa la sera, dopo una lunga giornata spesa davanti a uno schermo di un computer, vengo accolta da uno zampettare frenetico e felice. Non sono ancora abituata all'assenza di Nigel e penso a lui con amore e riconoscenza, perché mi ha dato la forza per non mollare. Mi ha spinto a rimboccarmi le maniche e a mettermi al servizio degli altri, a fare piccoli gesti gentili, gratuiti, che a volte fanno la differenza. Come un gatto giallo spaurito che ti dorme accanto, ti riscalda e ogni tanto si nasconde. Old Mr. Johnson had troubles of his own. He had a yellow cat that wouldn't leave his home. He tried and he tried to give the cat away. He gave it to a man who went far, far away. But the cat came back the very next day. The cat came back. They thought he was a goner, but the cat came back. He just couldn't stay away. Mia mamma è una gattara potenziale. L'unica cosa che la frena è un po' è mio padre. Mio padre ama più che altro i cani, però per tutta la vita ha desistito dal prenderne uno per evitare che sporcassero in giro e facessero danni in casa. Lui ha rinunciato a un cane anche perché non si sarebbe accontentato di un bassotto, no. Aveva preso un cane vero, un pastore tedesco. Uno che devi far correre tutti i giorni dell'anno. Uno vorace e magari con la vescica piccola. Uno che se lui era via per lavoro sarebbe stata mia mamma a doverlo portare fuori, anche sotto la neve. E lui non voleva darle questo peso. Ecco perché lei adesso non può insistere troppo sui gatti. Che a mio padre non piacciono, oddio, non gli piacciono, un po' sì e un po' no, però lei lo fa per rispetto. Però se fosse per lei, ogni randagio trovato per strada sarebbe ospite in casa nostra. Su certe cose lei non si ferma, diventa una specie di collezionista. Ma non una serie tipo quella dei francobolli, eh? No, solo una che accumula oggettini tutti uguali. Lo ha fatto per esempio con gli ippopotami. Un giorno hanno cominciato a piacere gli ippopotami e per 6 mesi tutto quello che aveva la forma di ippopotamo lo doveva possedere. Portasapone, portachiavi, scodelle, tappetini, tazze, qualsiasi cosa. E poi ogni cosa che rappresentasse un ippopotamo, ogni cosa. Devo dire che in quel periodo era piuttosto facile farle dei regali. Ma quando si è stancata degli ippopotami non gliene fregava più niente. Ecco, forse con i gatti non succederebbe, di questo sono sicuro. Però è anche un pericolo che forse è meglio non correre. Ecco, io però capisco Luisa. Capisco Luisa e il suo amore per il gatto. Perché se trovi un oggetto d'amore, sei felice. E se ne trovi due, sei felice il doppio. E così via, per accumulo. Però sono anche contento che tra i miei si sia creata questa specie di patto di non belligeranza. Non è che non ami gli animali, anzi, però non sai mai cosa pensano veramente, e i gatti ancora di più. E questo mi mette un po' a disagio. C'era un mio amico, cioè c'è un mio amico, che un tempo, ma mi sa anche adesso, ha qualche problema, insomma non sta benissimo, e ha deciso di andare da un analista, una donna. È una psicoanalista junghiana, che non so bene cosa voglia dire, però lui ci tiene sempre a dirlo con precisione. Lui mi raccontava che lei lo riceve con in braccio un gatto, che ha un nome che lui stesso non ha mai capito e che è sicuramente il nome di qualche divinità egizia. Insomma, lui continua ad andarci, ma non può fare a meno di chiamarla la gattara. Se ci dobbiamo vedere, a volte, ad esempio, lui mi dice: guarda, scusa, domani non posso, che devo andare dalla gattara. A me fa un po' ridere, ma lui è serissimo. Ne abbiamo anche parlato. Lui è convinto che lei, cioè che la gattara, l'analista, in realtà sia il gatto. Cioè, e che lei sia solo lo strumento che il gatto usa per farlo parlare. Infatti, lui si rivolge, dice, al gatto, mica a lei. Ogni tanto addirittura capita che questo si alzi e se ne vada, come fanno tutti i gatti così, senza un motivo. Il mio amico ci rimane pure male, come se la seduta diventasse un monologo inutile, con nessuno che ti ascolta. Ecco, secondo me questo è uno dei motivi per cui lui ha bisogno di un analista. Ecco, allora, io lo so che mia mamma ogni tanto ascolta il programma, e allora vorrei dirle che secondo me, se si prende un gatto, quello che le piace, quello con la coda spezzata, in realtà papà, in fondo, è contento. Non è che non gli piacciono veramente i gatti, anzi in realtà gli stanno pure simpatici, ma non ha mai voluto dare semplicemente la soddisfazione. Ah, e quando sarete in viaggio o in vacanza, che poi tanto lo so che non viaggiate quasi mai, andate sempre nei soliti posti, se c'è bisogno ve lo tengo io. Though the truth may vary, this ship will carry our body safe to shore. So listen to poi, tra l'altro, la definizione gattara non credo abbia un'accezione negativa o positiva in valore assoluto, è semplicemente una definizione. Secondo me Luisa lo sa meglio di me. Pronto, Luisa? Ciao Matteo, eccomi. Ciao, come stai? Bene, benissimo. Senti, tu ti senti una gattara? Io mi sento una gattara, forse per definizione popolare lo sono, anche perché do da mangiare a talmente tanti gatti che sono una gattara. Che non sono solo i tuoi, tra l'altro. Non sono solo i miei. Cioè, nel senso che tu sei una di quelle signore. Il problema è però che le gattare di solito hanno i capelli bianchi, lunghi, hanno dei gonnelloni un po' sporchi e mettono la roba da mangiare per i gatti in queste ciotole sporchissime. Tu non sei così. No, grazie al cielo, no, non ancora, se non altro. Ah, dici che il rischio è che arrivi, con l'età, quella cosa lì. Ma oddio, considerando che ne ho quasi 50 di anni, chissà, se continuo a fare la gattara ancora per un po', prima o poi i capelli molto bianchi mi verranno, però non il grembiulone. Quanto sei rimasta negli Stati Uniti? 11 anni. E facevi quello che fai adesso? Cioè, a parte i gatti, intendo dire, fai siti web? Sì, ho cominciato lì a fare web, diciamo, nel 95. Prima lavoravo nell'industria musicale. Senti, ma in questo momento ti trovi a casa o al lavoro? No, sono in ufficio. Mi sono barricata in stanza. Ah, ok. No, perché di solito quelli sono in ufficio vanno in bagno quando devono parlare in diretta. A che siti stai lavorando in questo momento? Ma sto riprogettando un grande portale per un ente pubblico. Ah, roba grossa, quindi. Roba abbastanza tosta, sì, infatti. Ma uno di quei lavori che durano 6 mesi. È roba tipo, come si chiama, cos'era? Il sito del Ministero del Turismo, please visit Italy, please visit our country. No, non questo. Non quello in particolare. Senti, invece lavoravi nella musica, tu suonavi in un gruppo, cantavi? Io suonavo in un gruppo, suonavo il basso, ho cantato, ne ho fatte un po' tante. Ma una donna che suona il basso è abbastanza rara, o sbaglio? Adesso ce ne sono parecchie. Un tempo sì, erano sicuramente più rare. Un tempo le donne cantavano, soprattutto, era la cosa più istintiva. Poi però ci sono state un sacco di bassiste. Se pensi anche, che ne so, una delle apripista fu la bassista dei Pogues, ad esempio. Quindi sei un'esperta e poi c'eri tu, certo, come Luisa Buoni direttamente dopo la bassista dei Pogues. Senti, quindi sei un'esperta di un certo tipo di musica o semplicemente hai abbandonato? No, beh, un tempo lo ero, adesso sai, in realtà il tempo libero è poco e mi piace ancora tanto la musica, però ci sono anche talmente tante cose che escono, talmente tante fonti che è difficile stargli appresso. Stargli dietro, certo. O ci lavori o no. Senti, invece, parlami dei nomi dei tuoi animali, ti prego, dimmi che gli hai dato un nome tipo Carla, Antonio, Giovanni e non Farfallino. Alcuni sì, no, abbiamo Olivia, abbiamo, oddio, Attila è un nome abbastanza rappresentativo. Dimmi il più scemo invece che gli hai dato, Luisa. Il più scemo è Jack Tonto, perché d'altronde è anche l'ultimo arrivato ed è un po' tonto. Senti, l'ultima cosa poi ti lascio, tuo marito come la vive questa cosa? Beh, immagino che condividiate questa passione, mi auguro abbastanza. Per lui. Lui non è maniacale quanto me, però tante volte è anche un po' complice, diciamo che non lo potrei fare senza il suo aiuto. Certo, e quindi... immagino. E invece, scusate, ho detto l'ultima cosa, ma un'altra cosa mi è venuta in mente. Ma il gatto giallo, intendi arancione? Sì, in realtà in inglese si dice yellow, quindi però, yellow cat. Però è quel gatto lì arancione che si vede in giro? È quel gatto lì arancione che vedi anche, che ne so, su tante scatole, perché solitamente il gatto giallo, arancione che sia, è molto bello, è considerato proprio un pupazzone. E Nigel era così, lo vogliamo ricordare così, parlandone da vivo. Assolutamente, Luisa, il mio pupazzo preferito. Grazie mille e in bocca al lupo per tutto. Grazie mille e in bocca al lupo anche a voi, siete qui. Ciao. Ciao, buona giornata. Voi siete qui. Voi siete qui. Voi siete qui. Voi siete qui. Voi siete qui. Se andate sul sito di Radio 24 alla pagina di Voi siete qui, trovate anche oggi le illustrazioni degli studenti dello IED del corso di secondo e terzo anno di illustrazione. Sono tre oggi, sono di Luca Rossi Schmidt, Valentina Moscon e Alice Coppini, e sono tutte molto belle. Hanno un tratto, si dice tratto, sembra che me ne intenda anche lì, proprio, cioè basta una parola per far finta che te ne intendi di una cosa. Hanno un tratto molto interessante, molto diverso tra di loro. Uno è iperrealista, con una donna che dorme a letto e un gatto appollaiato sulla sua schiena. Uno invece è un po' più favolistico, disegnato a matita e acquarelli. E uno invece è quasi da incubo, con un piccolo esserino la cui ombra proiettata dalla luna disegna sul muro un gatto. 349-238-6666 oppure voi siete qui @radio24.it. Allora, avevo un gatto che si chiamava Sid Micius ed era una femmina. Sei un pazzo. Sì, ma se devi far... Sì, ma se devi fare la trasmissione sugli animali, poi prendere in giro i nomi, potete risparmiartela. Sì, ma se prendete degli animali e poi gli date dei nomi che sembrano dei poveracci, potete anche magari non darglieli. La mia gatta Rina, una stupenda norvegese, mi ha assistito durante la mia disintossicazione da cocaina. Un ragazzo da Verona. E poi ce n'era un altro simile. Sono un alcolista, tante volte guardando il mio cane mi sono distolto da pensieri pericolosi. Ciao, grazie. Grazie a te e grazie a voi per questi messaggi. A proposito di nomi, mio papà aveva un cane di razza e un meticcio. Ah, ok, aspetta. Aveva due cani, un cane di razza e un meticcio. Il primo si chiamava Rommel come il generale, il secondo meticcio Hitler. Ciao, Marta. Va bene. Da 7 anni vivo 24 ore al giorno con la mia bulldog Gaia, ma anziché salvarmi mi ammazza con delle puzze terribili ogni volta che saliamo in auto. Ennio, cioè il meccanico da cui ho portato la veste un paio di volte, che ha un bulldog, che è un British Bulldog, sapete, quelli piccoli, belli anche, cioè con la faccia simpatica. E l'ultima volta che sono andato lì volevo fare appunto l'esperto, no? Che sa una cosa e la dice, quindi sembra esperto. E dico, bello, è un British Bulldog? E lui mi dice, no, è un Bulldog inglese. E poi mi ha raccontato che questi cani, ai British Bulldog, ma probabilmente Margherita lo sa meglio di me perché se ne intende di cani, puzzano tantissimo, perché hanno la pelle grassa, lui diceva. Al punto che non lo portava neanche a casa, lo lasciava in officina. Ma anche chi se ne frega. Ciao Matteo, io all'età di 10 anni sono stato salvato dall'attacco di un nostro bue da un maiale, che era per noi come un cane. Lo coccolavamo tutti i giorni e quando mi ha sentito gridare aiuto ha morso il bue al collo, liberandomi. Ciao Enrico. Delle volte, devo dire, i messaggi sembrano più finti della realtà, però visto che la realtà supera sempre la fantasia, io e Enrico facciamo che ci credo. Se però tu mi scrivi dove vivi, immagino tu abbia un'azienda agricola, no? O un allevamento. Dormivamo in pizzeria, il mio lupo, un cagnolino di appena 6 kg bagnato. Aspetta, no. Quando parto leggendo male, proprio infilo tutto l'SMS a muzzo. Dormivamo in pizzeria, io e il mio lupo, un cagnolino da appena 6 kg bagnato. Erano circa le 3 del mattino. Comincia ad abbaiare nervosamente e a correre verso la cucina, svegliando tutti noi quattro, ma soprattutto scacciando i ladri in cerca dell'incasso della serata. Alessandro da Cuneo. Ora, da questo messaggio vengono fuori veramente tante curiosità. La prima è: perché dormivate in pizzeria? La seconda è: perché eravate in quattro a dormire in pizzeria? La terza è: chi erano gli altri tre, oltre a te e al tuo cagnolino lupo di 6 kg bagnato? Quando abbiamo pensato questa puntata, appunto, per uscire un po' dalle sdolcinatezze sugli animali, che però devo dire al momento non ci sono ancora arrivate, a parte qualche nome, il peggiore della giornata rimane Nevina, comunque, secondo me perché era bianca. Ho questa sensazione. Pensa, si è risparmiata il nome di Palla di Neve, quel cane. Tu pensa che fortuna. C'è un libro di cui ho già parlato tempo fa, è un libro molto bello, si chiama L'isola degli animali. L'autore si chiama Gérald Durrell ed è uno zoologo che ha scritto in realtà un libro più famoso che si chiama La mia famiglia e altri animali. In questo libricino lui racconta dell'episodio realmente accaduto di quando la sua famiglia nel 38, credo, poco prima della Seconda Guerra Mondiale, dall'Inghilterra si trasferisce a Corfù. Lui passa un'infanzia che è un sogno probabilmente per moltissimi bambini, dai 10 ai 13 anni libero per l'isola, ed essendo appassionato di animali, studia gli animali come se fosse già uno scienziato. C'è un passaggio di questo libro in cui lui racconta che cosa fa la vita di un ragno particolare, che è un ragno che si crea una capanna sott'acqua e ha un modo molto particolare per crearsi una bolla d'aria e respirare all'interno della capanna. Una volta che mi recai al laghetto, catturai una creatura in cui da tempo sognavo di imbattermi. Era un ragno. Avevo letto molte cose su questo curioso animale che con la sua vita acquatica probabilmente era uno dei ragni più bizzarri al mondo. Lo presi e gli preparai un acquario con un fondo sabbioso e decorazioni di ramoscelli e fronde di pianta acquatica. Siccome questo ragno è il primo inventore della campana subacquea, mi sedetti assorto davanti all'acquario a guardare come la costruiva. Attaccò diversi fili serici fra le erbe e i ramoscelli. Ecco, questi erano i tiranti. Poi, partendo dal centro, cominciò a filare una ragnatela piatta, grosso modo di forma ovale, il cui ordito ricordava il comune tessuto, ma a maglie molto più fini. Ci impiegò 2 ore buone e alla fine ottenne una struttura soddisfacente per la sua casa. Adesso doveva pensare alla scorta d'aria. Se la procurò compiendo numerosi viaggi in superficie. Quando rientrava in acqua, il corpo gli si inargentava completamente per le miriadi di bollicine d'aria e lui correva sotto la sua tela, dove strofinandosi le zampe si liberava delle bollicine che salivano verso l'alto, rimanendo bloccate. 5 o 6 viaggi dopo, tutte le bollicine trattenute dalla tela si erano amalgamate, formando un'unica grande bolla. Man mano che il ragno continuava ad aggiungere aria, la bolla si ingrossava e premeva sempre più contro la tela. Così che infine il ragno ottenne ciò che voleva. Fermamente ancorata ai tiranti, fra erbe e ramoscelli, c'era una campana piena d'aria. Quella era la casa del ragno. Poteva trattenercisi con comodo e non aveva più bisogno di fare visite frequenti in superficie, perché l'aria della campana, lo sapevo, sarebbe stata rimpiazzata dall'ossigeno emesso dalle piante, mentre il diossido di carbonio rilasciato dal ragno usciva filtrando attraverso le seriche pareti della tana. 1, 2, 3, 4. Little yellow spider laughing at the snow. Maybe that spider knows something that I don't know, 'cause I'm goddamn cold. Hey there, little snapping turtle snapping at a shell. There's mysteries inside, I know, but what they are I just can't tell for sure. Baby crow, you're looking kinda mean. I think I oughta spit before you start letting off your steam, for sure. vi ringrazio davvero perché avete capito qual è lo spirito della non voglia di essere sdolcinati parlando di animali, e quindi l'elenco dei nomi è veramente meritevole quantomeno di una risata. I miei due gatti Bobo e Melissa, i nomi. Io ho un pastore tedesco, si chiama Indiana Jones, detto per semplicità Indy. Topi, Tex e Leo, i miei splendidi gatti del gattile. Il mio micio si chiama Calippo. Calippo il ghiacciolo. C'erano quelle due grandinette famose, la storia del Calippo, eh? Le due romane sulla spiaggia, ci famo un Calippo, una roba del genere, stiamo a fare la colla. Il mio pastore maremmano si chiama Sisma, il mio gatto si chiama Merlino, la gatta Lasagna. Più di ma Durrell è inglese, perché lo legge la francese? Perché sbaglio, Diego, quindi sarà probabilmente Darrell, immagino. Gerald Darrell, vabbè, comunque l'isola degli animali è il libro da cui ho estratto quel pezzettino primo. E poi c'è un messaggio di Francesco che è magnifico, che dice: io di animali ne ho 51, che detto così sembra veramente troppo, poi però in realtà letto il resto del messaggio un pochettino si capisce. Di animali ne ho 51: un cane di nome Biagio, uno splendido Springer Spaniel, che sarà tipo il Cocker, no? Immagino. Non immagino, sono solo spagnolo, quindi quella roba lì immagino sia una roba simile al cocker. E 50 uccelli da richiamo, tra cui Pavarotti, uno splendido esemplare di merlo, e Ramazzotti, un tordo bottaccio. Sono praticamente 51 figli che ogni giorno non vedo l'ora di accudire e stare in mezzo a loro. PS, amo gli animali, ma allo stesso tempo sono anche un cacciatore. Francesco da Vicenza. Non entriamo nel merito della questione caccia, salutiamo tutti quelli che hanno reso possibile anche il programma di oggi, che sono Tiziano Bonini, Paolino Corleoni, Margherita Ina e Stefano D'Andrea. La sera di oggi era la sera di Luisa e parlava di animali. Quella di domani è la sera di Vilma e parla di cecità. Fu la mia famiglia ad aiutarmi a ricominciare tutto da capo. Ecco, spesso mi chiedevo se si rendevano veramente conto della mia condizione così difficile. Forse non erano in grado, ma istintivamente sapevano che potevano e dovevano farmi sentire sempre utile, indispensabile, farmi sentire viva.